Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz, modulazione di frequenza stereofonica, nonché il web dove potete trovarci tramite la app che si chiama Radio, che trovate per meglio dire sul sito radiocittafujiko.it e da qualche mese anche tramite il DAB che si sta espandendo sul territorio emiliano-romagnolo, ma c'è sicuramente chi vi ragguaglierà meglio di me. Città Fujiko Live Club è la trasmissione che ogni mercoledì, quasi, poi vi spiegherò, si propone di farvi ascoltare musica registrata dal vivo di tutte le epoche e di quasi ogni genere. Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità, anche quest'oggi abbiamo una novità che come data di uscita risale al 2024, il mese di dicembre, ma appunto è una novità e ci tengo a ribadirlo ancora una volta per quel che riguarda la mia trasmissione, cioè questa trasmissione che si chiama Città Fujiko Live Club. Sicuramente qualche altro collega radiofonico di Radio Città Fujiko ve l'avrà già fatta ascoltare, ma per quel che riguarda appunto la mia trasmissione, questa è una novità. Ed è un doppio CD che festeggia, diciamo così, il 55esimo anniversario di attività di una band americana che ha vissuto un periodo di grande grande successo negli anni 70, diciamo così. Ha successo tuttora, ma è un successo un po' diverso, nel senso che scopro l'arcano, sto parlando dei Chicago, band che inizialmente si chiamava Chicago Transit Authority ed era una band molto alternativa, una band con una delle prime band ad avere i fiati all'interno della formazione, fiati fissi, di una sezione fiati fissa all'interno della formazione. Loro sono partiti nel 1967, il primo album però del 1968, e si apriva con una registrazione degli scontri che ci furono alla convention democratica di quell'anno. Furono all'inizio loro, come dicevo, parecchio alternativi, poi nel corso degli anni sono rientrati nel mainstream, anche troppo volendo, hanno avuto un successo commerciale veramente notevole con una serie di ballate veramente mielose. Comunque, all'interno della band tutt'oggi, dopo 55 anni, ci sono tre membri originali: Lee Loughnan che suona la tromba, James Penkoff che suona il trombone e Robert Lamb che suona le tastiere e canta. Hanno fatto una quarantina di album in studio, molti dei quali contrassegnati solamente dal numero progressivo. Infatti anche i primi era Chicago Transit Authority 1, 2, 3, 4 eccetera eccetera. Fra parentesi, a un certo punto hanno dovuto accorciare il nome perché la Chicago Transit Authority, che è l'azienda che gestisce il traffico pubblico a Chicago appunto, fece causa perché non voleva che usassero tutto il loro nome, quindi loro assunsero il nome solamente della città. Questo Live at 55, che appunto celebra il 55esimo anniversario della band, è in realtà accreditato a Chicago and Friends. Infatti ci sono una serie di ospiti tipo Steve Vai, tipo Robert Randolph e anche Chris Stone, Kingfish Ingram fra gli altri. Il tutto è stato registrato all'Ovation Hall del Ocean Casino Resort di Atlantic City, New Jersey naturalmente, il 17 e 18 novembre del 2023. Il brano che ho scelto per voi è uno dei super super super super classici di questa band, si chiama Saturday in the Park, loro sono Chicago. Brano famosissimo questo di Chicago, e anche qui fiati a profusione, fiati che appunto furono, sono da sempre, sono la caratteristica dei Chicago, che furono una delle prime band a introdurre una sezione fiati nella musica rock insieme ai Blood, Sweat and Tears. Questi ultimi erano un po' più lato jazz, mentre i Chicago erano più lato rock. Il tutto tratto dalla novità, vale a dire Saturday in the Park, il brano che ci siamo ascoltati, tratto dalla novità che vi propongo quest'oggi, Live at 55 Chicago and Friends, per festeggiare il 55esimo anniversario della la pubblicazione del primo album dei Chicago. E la scelta di Saturday in the Park non è stata casuale, come spesso e quasi sempre accade, perché la prima parte della trasmissione di oggi ci ascolteremo dei brani che parlano di sabato. Ci sono un sacco di brani che parlano dei vari giorni della settimana, lo sapete meglio di me, ce ne sono un sacco che parlano di sabato ed è abbastanza logico, perché il sabato è la serata deputata al divertimento totale, è un giorno semifestivo in molti casi, è la vigilia di un giorno festivo, si va fuori la sera, si sta fuori la notte, eccetera eccetera eccetera, a volte succedono anche un bel po' di casini, ma questo è un altro discorso. Quindi andiamo subito ad ascoltarci questo brano, che però parla di sabato in una maniera un po' strana. Il brano si chiama Saturday Night Special e parla, è il nomignolo questo dato alle pistole economiche negli Stati Uniti, cioè le pistole che tutti possono acquistare e che tutti possono usare, perché come dicono i saggi, se hai una pistola prima o poi la usi, e questo può provocare naturalmente i casini di cui parlavo prima. Ce lo dicono i Lenesque Nerd, una super super grandissima band che viene da Jackson, Florida, e attiva dal 1964 con diverse interruzioni, una anche dovuta a un incidente aereo del 1977 nel quale morirono tre dei componenti del gruppo, e infatti al momento attuale non ci sono membri originali, perché anche i sopravvissuti, chi si è ritirato o chi è deceduto nel corso degli anni. One More From The Road è il primo di una serie abbastanza lunga, anzi parecchio lunga, di album dal vivo. Uscì come doppio album nel settembre del 1976, portando la fama di Lenesque Nerd ai massimi livelli. È stata ripubblicata in doppio CD nel 2001. Il tutto registrato al Fox Theater di Atlanta nel luglio del 1976. E andiamo ad ascoltarci questo Saturday Night Special, che, come dicevo, in realtà parla di pistole. Good evening. How are you? Okay. Shop-a-doo. And I'll give it. shake you, watch you, they're doing yours too. They won't let me. È stato assolutamente un caso, non sapevo per niente che quest'oggi il buon John Cameron Fogerty compie 80 anni. A dirlo mi si accappona la pelle, perché i Creedence Clearwater Revival sono stati uno dei primi miei grandi amori musicali quando ero praticamente un bimbo. Ma comunque i Creedence sono stati attivi dal 1967 al 72 sotto la guida appunto di John Fogerty, che ci siamo ascoltati e in questo brano che si chiama Almost Saturday Night, appunto quasi sabato sera, e il tutto viene da un album che si chiama Premonition, il primo album ufficiale dal vivo di John Fogerty, che ne ha poi pubblicati altri tre. Fra parentesi, fu il primo album live nel quale il primo album ufficiale nel quale propose pezzi dei Creedence dopo una lunghissima diatriba legale con il suo ex manager, che deteneva i diritti delle canzoni dei Creedence, che però aveva scritto John Fogerty, e alla fine John Fogerty è riuscita a spuntarla e possiamo ascoltarlo costantemente con la sua voce e le sue bellissime canzoni. Il tutto è stato registrato a Warner Bros. Studios, esattamente lo Stage 15, a Burbank in California, nel dicembre del 1997, Almost Saturday Night. Se John Fogerty ci diceva che è quasi sabato sera, invece i Cure, che spero non abbiano bisogno di presentazioni, ci danno un appuntamento alle 10:15 di sabato sera, il tutto registrato al Festival, scusate il gioco di parole, nel main stage di questo mega festival che si svolge all'isola di Wight, se ricordo bene biannualmente. Il tutto in questo caso è stato registrato il 10 settembre del 2011, 10:15 Saturday Night. Loro sono Cure. Thank you. e la località dove vivono o vivevano, per meglio dire, gli Ultravox non doveva essere un granché, perché questo brano si chiama Saturday Night in the City of the Dead, non Saturday, che evidentemente metricamente non ci stava, ma Saturday, S-A-T apostrofo day, che è la contrazione appunto di Saturday. Ma attenzione, ho detto Ultravox, ma quelli veri, secondo me, quelli con il punto esclamativo, perché dal 1974 al 1979 si chiamavano così. Poi in quell'anno John Fox, il cantante e leader praticamente della band, lasciò il gruppo per una carriera solista che obiettivamente non gli ha dato grandi soddisfazioni, soprattutto economiche, e invece di cambiare nome la band tolse semplicemente il punto esclamativo, diventando Ultravox normale. Hanno fatto 3 album con John Fox, tutti e 3 bellissimi, e questo è un album live che non fu pubblicato all'epoca, è stato pubblicato in tempi recenti, si chiama Live the Rainbow 1977, è stato pubblicato appunto nel marzo del 2021, inizialmente solo come download e più tardi anche in long play, non esiste in CD. Tutto è stato registrato al Rainbow di Londra il 19 febbraio appunto del 1977. Il brano si chiama Saturday Night in the City of the Dead, loro, lo ripeto, Ultravox, quelli con il punto esclamativo. see you soon. Thank you. Finale di concerto incandescente, quello al Wembley Stadium di Londra il 21 giugno del 1975, ma non sono assolutamente d'accordo con quello che dice Elton John, vale a dire che il sabato sera è giusto, è appropriato per combattere. Saturday Night's Alright for Fighting, il pezzo che ci siamo ascoltati da questa registrazione che fa parte del secondo CD della ristampa che è stata nel 2008 di un album che ha avuto un grande successo di Elton John, appunto, che si chiama Captain Fantastic and the Brown Dirty Cowboys. L'album originale uscì singolo Cowboy. L'album originale uscì nel maggio del 1975 e portò, come dicevo, un grande successo a quello che poi è diventato Sir Elton John. E niente, come dicevo, il brano è stato registrato a Wembley Stadium e si sente anche dalla gente che è abbastanza infoiata. Comunque, Saturday Night's Alright for Fighting per me non è giustissimo. Uno dei miei beniamini in assoluto si chiama Ian Hunter. Come dicevo prima, John Fogerty ha compiuto 80 anni, lui ormai veleggia più tardi, non dico verso i 90, ma sicuramente verso gli 85. Infatti è tantissimi anni che è sulle scene, prima con una carriera solista non molto fortunata, poi nel 1969 entrò nei Mötley Crüe e che si sciolsero poi nel 74, ma hanno fatto qualche riunione estemporanea nel corso degli anni. Ian Hunter, solista, una carriera dopo i Mötley Crüe fu invece un po' parecchio più fortunata di quella precedente. Ha fatto molti album live, fra cui questo, che si riallaccia a una trasmissione che ho fatto la settimana scorsa, un paio di settimane fa, vale a dire una incisione con l'orchestra. Si chiama semplicemente Strings Attached, il doppio dischetto che ho tra le mani e che è stato registrato dal buon Hunter insieme alla Trondheim Solisten. Trondheim è una città norvegese e questa Trondheim Solisten Orchestra è invece stata registrata appunto insieme a Ian Hunter al Centrum Machine di Oslo in Norvegia il 29 e il 30 gennaio del 2002. Il pezzo che ci devo ascoltare è molto, molto interessante, perché oltre ad essere un bel pezzo si chiama Saturday Gigs, e a un certo punto Ian Hunter finisce il pezzo ma il pubblico continua a cantare e lui insiste, dice: ragazzi, il pezzo è finito, basta, poi lo riprende. Saturday Gigs, Ian Hunter. 69 was street by white, have a good time, watch your sight, roll up to the roundhouse on a Sunday afternoon. In 70 we all agree a King's Road flat was the place to be, 'cause Chelsea girls are the best in the world for company. In 71 all the people come, bust a few seats but it's just in fun. Take the mick out of Top of the Pops, we play better than they do. In 72 we tipped up snakes into yesterday's news. I was ready to quit, but then we went to Croydon. Do you remember the Saturday gigs? We do. Do you remember the Saturday gigs? 'Cause we do. And the tickets for the fantasy were 12 and 6 a time. Fairy tale on sale. Now, 73 was a jamboree. We were the dudes were we. Did you see the suits and the platform? Oh dear, oh God. But thanks for a great trip. Do you remember the Saturday gigs? We do, we do, do. Do you remember the Saturday gigs? We do, we do. And now the kids pay a couple of quid, 'cause they need it just as I have. It's all a game, a grown-up game. Always sitting on the left side. You'll be sitting Vengono da Kilmun Rock in Scozia, è un trio la cui sezione ritmica, basso e batteria è affidata a due fratelli gemelli che si chiamano James e Ben Johnston. La band invece si chiama Biffy Clyro ed è famosissima non solo in Scozia, ma sono molto più nazionalisti di noi, addirittura più nazionalisti degli inglesi, e hanno fatto 4 album dal vivo. Questo che ci siamo ascoltati si chiama Revolution Live at Wembley, è il primo, e naturalmente è stato registrato a Wembley, alla ruina di Wembley, il locale chiuso più piccolo rispetto allo stadio, e il 4 ottobre del 2012. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Saturday Super House ed è appunto uno dei classici dei Biffy Clyro, che non so quanto siano conosciuti dalle nostre parti, ma là sono veramente molto molto molto famosi. Ecco, forse questo è il brano più famoso dei Biffy Clyro. Comunque, andiamo a concludere questa piccola rassegna di brani dedicati al sabato in un modo o nell'altro, e senza naturalmente essere andati a fondo in quelli che sono i testi, cioè chi lo fa meglio di me. E andiamo a concludere con un personaggio che ha avuto un grandissimo successo con i primi due album, poi ha avuto qualche problema sia di salute che anche psicologico, diciamo così, che l'ha allontanato per qualche tempo dalla musica, e infatti sono passati 4 anni dal suo secondo album a quello nuovo che è uscito nel febbraio di quest'anno. L'album nuovo si chiama People Watching, lui invece si chiama Sam Fender ed è veramente molto molto bravo. Viene da North Shields, un sobborgo di Newcastle, e l'abbiamo visto in concerto anche qua in Italia, aprire 2 date di Bruce Springsteen nel 2023, una grande band molto assemblata sullo stile E Street Band, con tanto di sax in certi momenti doppia tastiera. Veramente, veramente molto interessante. Il secondo album, che è quello che ci andremo ad ascoltare, si chiama 17 Going Under, è stato pubblicato come CD nel ottobre del 2021 e non si sa per quale mistero è stato ripubblicato un anno dopo con allegato un dischetto che si chiama Live from Finsbury Park, e già il titolo dice tutto. Infatti Finsbury Park è uno dei grandi parchi di Londra dove spesso ci sono concerti. Il tutto è stato registrato il 19 luglio del 2022 e ce l'andiamo ad ascoltare la conclusione di questa prima parte dedicata ai sabati, un brano che si chiama Sabato, Saturday, Sam Fender. Hey, I wanna hear you. And if Saturday don't come soon, I'm gonna lose things were mine. I need help with the falsetto. And if sanity don't come soon, I'm gonna lose my mind. Let's hear you. And if as loud as you can. Give yourselves a round of applause, you fucking legends. All right, let's do it properly. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, 28 maggio 2025, seconda parte che è iniziata con la novità che vi propongo quest'oggi, anche se oramai ha un 6 mesi sul groppone, questo doppio CD che celebra il 55esimo anniversario della pubblicazione dell'album d'esordio dei Chicago, che allora, come dicevo, si chiamavano Chicago Transit Authority. Si chiama Live at 55 ed è attribuito a Chicago and Friends, perché appunto ci sono diversi amici, fra cui il buon Kristen Kingfish Ingram, che appare in questo brano che ci siamo ascoltati, uno dei primi successi dei Chicago, si chiama Make Me Smile, gruppo che, come detto prima, si è partito molto molto alternativo per poi diventare molto molto molto mainstream. Questo pezzo è bellissimo, ma dobbiamo andare avanti perché, come sempre, nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. E oggi abbiamo, come criterio di scelta, c'è sempre quello di un brano per ogni decade, e oggi abbiamo 7 decadi. Non ce lo farò mai, ma comunque ci provo. Quindi pochissime chiacchiere, partiamo dal 1968. Semplicemente la più grande cantante che mi sia mai dato modo di ascoltare. Purtroppo non dal vivo, perché lei ci ha lasciato molto presto. Lei si chiamava Janis Joplin, ma ha fatto parte per qualche anno, diciamo due, tre, considerando l'anno pieno, ha fatto parte di una band che si chiamava Big Brothers and the Holding Company. Questo album, band che è tuttora attiva con solo Peter Albin, il bassista, come membro originale. E niente, l'album si chiama Chap Thrills, è una mescolanza di registrazioni in studio e dal vivo. Questa è dal vivo, è stata registrata il 28 maggio del 1968 al Film Roditorio di San Francisco. Vi consiglio, vi prego di interrompere qualsiasi attività stiate facendo, sedervi se ne avete la possibilità, ma ascoltate questo brano perché è semplicemente stupendo. George Gershwin da Porgy and Bess, questo si chiama Summertime, Big Brothers and the Holding Company dal 1968. Thank you. wanna rise, rise up singing. You're gonna spread your wings, shout and take to the sky. To harm you now. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Don't you cry. Avrò ascoltato questa versione di Summertime migliaia di volte, ma tutte le volte tre dita di pelle d'oca arrivano. Summertime, appunto, Big Brothers and the Holding Company, con la voce incredibile di Janis Joplin. Era il 28 maggio del 1968, Fillmore Auditorium di San Francisco. Due anni dopo, siamo al 1970, andiamo da Summertime, dal paradiso di Janis Joplin e dei suoi Big Brothers and the Holding Company, all'inferno dei Black Widow, band che per diverso tempo ha battagliato, fra virgolette naturalmente, con i Black Sabbath per il band più dark dell'universo, si fa per dire. Loro venivano anzi da Leicester, hanno avuto due stint, il primo dal 1966 al 1973 e l'altro dal 2007 al 2014, brani occulti, contesti occulti molto molto particolari. Hanno avuto un gran successo con i primi due album, con il secondo e il terzo, a dire il vero, che si chiamano Sacrifice e Black Widow negli anni 70 naturalmente, e poi è stato pubblicato invece in tempi più recenti questo Demons of the Night Gathered to See, che è l'unico album live che hanno fatto. È stato registrato per la TV tedesca, una trasmissione che si chiamava Beat Show, e che è stato registrato il 28 maggio del 1970. Il loro pezzo più famoso, più classico, loro sono Black Widow, il pezzo si chiama Come to the Sabbath. Drive me in my such power. Sabbath, come to the Sabbath, sit and stare. Come, come, come to the Sabbath, come to the Sabbath, sit and stare. Come, come, come to the Sabbath, come to the Sabbath, sit and stare. Come, come, come to the Sabbath, come to the Sabbath, sit and stare. Come, come, come to the Sabbath, come to the Sabbath, sit and stare. Ripetuto invito al Sabba da parte di questi Black Widow, l'album che, come ripeto, è uscito postumo dopo lo scioglimento del 2014 della band. Si chiama Demons on the Night Gathered to See, è stato registrato per la Beat Club TV Show, una trasmissione televisiva tedesca a Bremen in Germania, il 28 maggio del 1970. Come to the Sabbath, il brano di punta nella produzione di questa band che poi si è un po' persa nei meandri dell'occulto. Un grande chitarrista che veniva purtroppo da Ballyshannon, County Donegal, Ireland, si chiamava Rory Gallagher, fantastico chitarrista, veramente molto molto bravo. È esordito insieme a una band, a un trio che si chiamava Taste, con il quale è rimasto dal 1966 al 1970, pubblicando un paio di album dal vivo. Poi si è messo in proprio ed è esploso, anche se purtroppo ci ha lasciato nel 1995. Dopo la sua morte, il fratello Donald ha curato diverse pubblicazioni postume, appunto, fra cui diversi album live. Questa invece è un'antologia, si chiama Blues, nel caso specifico Deluxe Edition, perché la blues normale è un CD, questi invece sono tre. I primi due sono in studio, il terzo invece è dal vivo, registrato in diverse occasioni, in diverse epoche. Il brano in particolare che ci andiamo ad ascoltare è un classico del blues scritto da Sonny Boy Williamson, si chiama When My Baby She Left Me, ed è stato registrato all'Apollo di Glasgow il 28 maggio del 1982. Il pezzo appunto fa parte di questa antologia che consiglio caldamente a chi non ha niente di Rory Gallagher, ma anche a chi ha tutto, perché questo CD live è assolutamente inedito. When My Baby She Left Me, Rory Gallagher, dal 1982, mi ero perso. frontman, si chiama John Popper, è un armonicista fantastico ed è ricercatissimo anche dalle altre band. Hanno fatto diverse cose dal vivo, fra album, EP e singoli. Questo è un EP, anche se abbastanza lungo, si chiama Bastardos en Vivo. È stato registrato in diverse località. Questo brano è stato registrato a Rockville Street Festival, in quel di Rockville, nel Maryland, il 28 maggio del 2006, e si chiama She's on Mine. Loro sono Blues Traveler. Growing up on the Kansas plain, I look to the East Coast to lightning and watch how we're here. And the West Coast keeps dreaming, things are tough all over, but for me it's just as well. She is in mine. She is in mine. She is in I wanna change me. She isn't mine. She isn't mine. She isn't mine. Cause it feels so good that I promised I would keep it easy and fun. But when you're on the run, you scavenge to live, and what I just let it give, I tell myself forget it, that it's only for the better. But I can't help devise to manage surprise, to keep her in contact, to feel her react to me, feel her attract to me. But it's so abstract to me, 'cause she isn't mine. Isn't mine. She isn't mine. Isn't mine. Si chiamano Blues Traveler, non sono molto conosciuti dalle nostre parti, ma sono una delle jam band più famose negli Stati Uniti. Questo Bastardos en Vivo è stato registrato in diverse occasioni, in diverse serate. La serata del 28 maggio 2006 erano a Rockville nel Maryland, e questo brano si chiama She's in Mine. And have me care. Sempre più velocemente andiamo, torniamo in Gran Bretagna, esattamente a Leicester, dove arriva una band che si chiama Kasabian. Il loro leader e cantante, che si chiama Tom Magan, ha lasciato la band nel 2020. Loro sono formati nel 1997. lasciando a Sergio Pizzorno, di chiare origini italiane, il compito di cantante, di chitarrista e di maggior scrittore di canzoni. For Crying Out Loud è stato un album di studio pubblicato nel maggio del 2017, che è stato l'ultimo, fra parentesi, con Tom Megan, mentre la Deluxe Edition, uscita nello stesso anno, conteneva un album live chiamato Underdog, registrato proprio nella loro città al King Power Stadium il 28 maggio del 2016. Il pezzo che ho scelto per voi è l'ultimo, che conclude il concerto, si chiama Fire, loro sono Kasabian. Brano conclusivo del concerto del 28 maggio 2016 a Leicester dei Kasabian, il brano che ci siamo ascoltati si chiama Fire. Molto velocemente vi ringrazio per l'ascolto, vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, 2 ore di musica dal vivo ogni mercoledì con colui che vi sta parlando costantemente in ritardo, per cui vi do appuntamento mercoledì prossimo, sempre dalle frequenze naturalmente di Radio Città Fujiko. Ce l'ho fatta, vi lascio in compagnia dell'ultima registrazione effettuata il 28 maggio del 2023 da parte di Melissa Etheridge, grande cantante che viene dal Kansas, in un carcere proprio nel Kansas, non molto lontano da casa sua, sempre col metro americano. L'album si chiama I'm Not Broken, Live from Topeka Correctional Facility, e il pezzo invece si chiama I Want to Come Over, Melissa Etheridge dal 2023. Ciao a tutti da Nevio. I know you're home. Left your light on. You know I'm here. The night is thin. I know you're alone. I watched the car leave. Your lover's gone. Let me. I know you're weak. I know.